Vabbè, ma mentre scorrono i prodigi, una canzone non a caso, Funky Shit, volevo dire a Simone Cusella: Simone, è entrato un malintenzionato in casa tua, perché non hai ancora sparato? In realtà io ho già sparato 10 volte. Allora c'è la mira al culo, figlio mio. L'avevo preso in culo. No, vabbè, signore. Questa era ambigua. Vostro onore, io mi oppongo e lancio subito la sigla. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Ed eccoci qua, facendo le feci del Decuius. Si dice così, vero Marco? Sono un italiano impeccabile, è vero, ho preso 110 cum laude. E l'Odem. Oh, buonasera a tutti, bentrovati da me Walter, che oggi torna eccezionalmente alla regia come la scorsa stagione, poi vi spiegheremo perché. Ma con me c'è sono io. C'è Marco Gualdi, l'appendicite di Marco Gualdi. Sì. C'è qualcuno. E Simone Gusella. Ciao a tutti. Ciao. Salutiamo subito i nostri ascoltatanti. Dumboy, ciao Dumboy. Gli ascoltatanti, che c'è Davide Gatti, c'è Carmine Puccio, c'è di nuovo Davide Gatti, c'è di nuovo Enrico. Bella questa cosa perché si ripetono, ci sono tanti Enrico, tanti Davide Gatti. Sembrano tutti uguali, c'è un solo, per esempio c'è un solo Carmine Puccio, a me non sembra giusta questa cosa, insomma, almeno due. Infatti, per rappresentanza. Che ci si riproduca improvvisamente. Non diamo suggerimenti perché se se ne vanno a scopa non sentono il programma. Ah, che c'è questa cosa. Oh, e come al solito ci saluta Stefano, che ovviamente ci ascolterà in e Lobby, mitico. Ed ecco che c'è anche Lobby col sorcio in bocca, perché dice stava mangiando. Noi vi salutiamo tutti e vi spieghiamo che questa è una puntata un po' particolare sotto tanti punti di vista. Prima di tutto perché la stiamo facendo dallo studio 2bis di Runtime Radio, lo studio 2bis di Montrodondo. Uno dei tanti studi diversamente distribuiti. Purtroppo abbiamo avuto un problema col Pizzi. Esatto. Allora, noi siamo venuti qui questa sera. Siamo messi d'accordo, facciamo una bella riunione a casa di Simone Cusella. Pizzi però è diciamo che sa più o meno come si accede fino alla porta di Cusella, è entrato un po' di soppiatto e Cusella lo ha pugnalato diverse volte, pensato che fosse una persona. Quindi infatti io sento dei rumori di impallamento, però vabbè, quindi di impallinamento, non succederà forse nulla perché è lecito. Sembra che da oggi sia lecito. Tutto lecito, sì. Assolutamente. Anzi, vi esortiamo, se per caso vi bussa il vicino di casa per chiedervi il sale, fategli fare un passo all'interno della vostra residenza, quindi non sul ballatoio, non sul pianottolo, fategli fare un passo in casa e poi lo freddate Spam. Con nonchalance e dite: Salvini ha detto che posso. Non mi prenderete mai. E pugnalate al petto il parcheggio. Però può succedere che una persona entri per sbaglio dentro la casa di un altro, no? Cioè, può succedere. Potrebbe succedere, magari il bambino che va a raccogliere la palla, pam! Esatto, no. Non ti buco più il pallone, ti buco a te. Direttamente a te. Esatto, salutiamo PRG che ci ha raggiunto. Ma quando mai può succedere una cosa del genere? Ora, però io adesso sono in dubbio su un aspetto tecnico. Se si fermano a leccare il citofono? Dipende se è dentro la proprietà privata. Secondo me dipende come lo lecca. Anche come lo lecca. Dipende dalla forma. Dipende sempre da come la lecca, però. Se ha forma di capezzolo. Direi che si potrebbe sparare sulla lingua. Per sicurezza, così. Gliela stacchi così non te lo lecca più, giusto. È un concetto curioso, un po' ardimentoso da provare. Dice Lobby Frontali che Simone Pizzi lo ha stancato io in giro per la città, che si scrive come Fregna. Bologna. Vabbè, poi me lo spiegheranno. Cose che sanno i nostri fan. Oh, ragazzi, come dicevamo, oggi è una puntata di morte, devastazione, trucutanza, che è un termine, una crasi che ho appena creato io adesso. E noci de cocco. Perché purtroppo dobbiamo riportare una serie di coccodrilli. Voi immaginatevi che ci sia la nostra solita musichetta di quella del coccodrillo. Non ce l'abbiamo, vi accontentate dell'asset standard. Ed eccoci qua, perché appunto un bel riff di batteria per niente generica questa sigla. No, è bene su tutto, come il nero. Però è mortificata. Allora, ragazzi. Beh, il nero su tutto, sì. Ci va volentieri. Sono successe un sacco di cose in questi ultimi 2-3 giorni, di cui vi dobbiamo dare necessariamente conto, soprattutto se, come tutti noi, meno Cusella, siete stati più o meno giovani negli anni 90. Perché... Io negli anni 90 ero giovanissimo. Sì, tu eri un progetto negli anni 90, ricordi? Anzi, era neanche un'idea. Lo so, forse era un'idea, forse ancora no. Vivevo nel idea. Futuro io. Probabilmente era una brutta idea. Ma se avessimo un figlio, no, magari viene Cusello. Però, insomma, noi altri che più o meno eravamo tardo adolescenti, adolescenti, giovani adulti, dipende insomma dall'età, ci ricordiamo sicuramente due personaggi che sono venuti a mancare oggi. No, scusate, in questa settimana, un paio di giorni fa. Il primo è stato, a seguito di un ictus fulminante, Luke Perry, l'interprete assolutamente indimenticabile di un cameo in Vacanze di Natale 95. Quello si è pentito e che probabilmente ha pagato con questo ictus. Allora, io sono dell'idea che lui ha visto la sua comparsata in Vacanze di Natale 95 per la prima volta per caso su YouTube l'altro giorno e gli ha preso l'ictus. Esatto. Poi... casualmente, diciamo così, in maniera del tutto opportunistica, ha fatto anche, era uno dei protagonisti di Beverly Hills 90210, quello che se le trombava tutte, quello un po' bel tenebroso alla James Dean, insomma, sto parlando di Luke Perry per gli amici Dylan, e avremo anche un contributo per cercare di ricordarlo, perché noi cercheremo durante questa puntata di onorarlo al meglio. Esatto. Momenti di altissima televisione, ragazzi, sì. Sono quasi Beverly Hills 90210. Degli anni 90, degli anni a 90. Sono cerebralmente commosso, insomma, proprio una commozione cerebrale. Degli anni 90. Esattamente. Quindi avrete sicuramente da questo contributo un po' prolisso, per la verità, financo anche un po' azzardato, vero? E ci scusiamo per le nocite cocco. Però insomma avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando. Invece un altro ricordo, e lo avete sentito se siete stati in prediretta nella tracklist di oggi, va al compiantissimo cantante dei Prodigy, che non mi chiedete il nome perché non me lo ricorderò mai. Kit Flint, come pirata, che praticamente, probabilmente come tanti altri artisti prima e dopo di lui, è andato in depressione a causa di problemi probabilmente sentimentali, e si era bene ha ragione Marco Gualdi e Kit Flint, che si è tolto la vita un paio di giorni fa nella sua casa in Sussex Center. In UK, ecco. E insomma, devo dire che io ero un pochino, come dire, un loro fan, tant'è che posso ricordare di essere stato a un loro concerto e posso anche raccontarvi questo aneddoto divertentissimo. Brevissimo, prima della loro entrata sul palco, il gruppo spalla erano i Marlene Kunz. Non gli hanno fatto finire la prima canzone, sono dovuti scappare perché gli volevano menà. Vabbè, insomma, io non so chi di voi si ricorda di Marlene Kunz, soprattutto gli anni 90. Diciamo così che le nocite cocco le fracassavano. Ho avuto l'onore di vedere il gruppo di cantura dei Red Hot Chili Peppers qualche anno fa. I Toy Boys, la cui cantante, dove gente si strappa i capelli per questa cantante, poi si toglie le mutande, lo tira la gente per strappare le mutande, poi a un certo punto si togliava le mutande. E c'era il batacchio! Non so perché, ma me l'aspettavo. Sorpresa. Oh, dice Pier G, ma questi sono quelli di Passami in Radio col Beep. Allora, noi qui, l'opera si chiama Beverly Hills, se volete poi potete andare a cercare su YouTube, sono i ridoppiaggi. Come sarebbe dovuto essere Beverly Hills in originale se non ci fosse stata la censura in Italia? E... è diventata una mera commediola anni 90 di studenti. Esatto, ma in realtà è un documentario sull'educazione sessuale. Esatto. E noi li conosciamo come i Profilax, in arte anche i Sanculamo, e probabilmente però a seconda dei miti e delle leggende popolari, loco per loco, cambiano nome. E niente, quindi insomma dobbiamo necessariamente avere questo momento di... di cordoglio, vero? Di cordoglio ombelicale. Infatti. Ti senti un cordoble? Mi sento un cordoglione, in realtà. Quindi andiamo avanti con la trasmissione, perché mi sento molto triste. Ma io adesso non posso esimermi da chiedere alla mascotte della situazione, al nostro giovincello Cusella, ma tu Beverly Hills un po' te lo ricordi? Sì, tantissimo. Vero? Raccontaci la trama di Beverly Hills. Tantissimo. Tu che lo amavi tanto. C'era gente che parlava. C'era questa famiglia, cose. Erano due fratelli. Geneticamente mortificati, esatto. Geneticamente diversi, ma gemelli diversi. Gemelli diversi. Una ragazza e una era una ex ragazza. Pier G, cioè la base è un po' alta quando parla Marco, semplicemente perché Marco non parla al microfono e perché quindi il ducking non agisce. Mi è stato scippato. Allora, perché c'erano questi due ragazzi che andavano a scuola, no? Come tutti i ragazzi che vanno a scuola. Che palle. Che cosa è uscito? A un certo punto arriva Dylan. Che chi è Dylan? Boh. Sto cazzo. Esatto, però se scopava tutto. Arrivo raccontaci, insomma, tu che lo vedevi, insomma, sì, io la trama non la conosco tanto. Dai, facci io Dylan. Lo vedevo, poi c'è Dylan che va sulla luna e scopre che lì ci sono delle belle gnocche. C'è una base lunare fatta solo di gnocche. UFO, base lunare Stryker, tutto, mischiamo. E queste gnocche ovviamente lo metto incinto perché fanno degli esperimenti con le persone, lo rimandano sulla Terra e poi lui esplode, fa cose. È diventato Kenny il guerriero un tratto, però va bene così. Sì, me lo ricordavo diverso, però non è che l'ho seguito tanto. Anch'io me lo ricordavo molto diverso. Però ricordatevi sempre che la noce di cocco è buona, fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, se no te la mangi è meglio. Molto meglio. È molto meglio. Va usata in un altro modo la noce di cocco. Però invece io so che un qualche ricordo dei Prodigy ce l'hai invece, giusto Simone? Io sì, perché Prodigy li conosco soprattutto perché facevano un sacco di apparizioni nei giochi, soprattutto giochi di corse arcade. No, scusa, facevano duro. Perché sono morti? Beh, facevano un fatto. Da mo'. Scusate. Anch'io Prodigy mi ricordo ai tempi del PC, era veramente un po' steppato, mortadella, mi ricordo. Pensavo che fosse morto. Ma insomma, che capita, succede. Tra l'altro ci dice Virginia, negli anni 90 tutti con le basette alla Dylan e il ciuffo alla Brandon. E in effetti io non ero dotato de strumenti, diciamo, adatti. Già all'epoca, insomma, c'erano pochi di capelli, non ci sono mai riuscito. Però vabbè. E insomma, quindi insomma, dicevi Simone che i Prodigy erano la colonna sonora di tanti giochi. Per esempio Wipeout. Beh, sostanzialmente, allora, le musiche dei Prodigy stasera le ho scaricate io molto legalmente e sono tra l'altro tutte apparse in giochi tipo appunto Wipeout. Diamo l'indirizzo per la Guardia di Finanza, via My Free MP3. No, no, l'indirizzo di casa tua per venirti a prendere. Via. E abito lì, myfreemp3.com. Ah, ok, perfetto. Io abito nella rete. Al numero civico.com. Sì, al numero civico 192.168. Giustamente. No, c'ha senso, quello che ha detto c'ha senso. È una battuta ricercata questa. Vero. È tecnologica. Allora, quindi sì, questi giochi tipo Wipeout, PGR4, addirittura anche cos'era, Dirt 2, Crysis 2 addirittura. E so che molti apprezzeranno la musica alla fine di Punto di Non Ritorno. Ho scoperto che è dei Prodigy. Perché, diciamolo, un pochino ispirano, come posso dire, a correre. Io non so se vi è mai capitato. Beh, che è molto dinamico. Sale la mosca quando lo mettete in macchina, alzate il volume proprio oltre. E dopo oltre due minuti siete arrivati. Sì, dopo due minuti siete arrivati. Se non vi siete prima sopranti con un albero. O c'è una simpatica valetta. Per esempio, oggi Simone ci raccontava di un simpaticissimo autovelox sulla Salaria. Peraltro neanche molto ben segnalato. Se tu avessi avuto Smack My Bitch a po' Firestarter The Prodigy a palla in quel momento, avresti superato la velocità, il punto di fuga terminale, la velocità terminale di cognizione. Hai superato la velocità di cui sei capace di cognire. La velocità. Sono arrivato. Vabbè. Sì, avrei rotto la lente forse dell'autovelox. Anche tu. Perché mi ci sarei schiantato contro, forse. Beh, però potrebbe essere un sistema da brevettare. Vabbè, poi ci pensiamo. Amici, raccontateci anche voi, insomma, abbiamo visto che la morte di Dylan qualche reazioncina vaga l'ha prodotta nella nostra chat. Nessuno sta parlando dei Prodigy, probabilmente li ascoltavamo solo noi, cioè, o meglio, non lo so, Marco li ascoltava? Qualche volta sì, insomma, quando proprio non ho voglia di parlare. Oh, io intanto vi ripeto che sto tenendo sotto controllo, così, ma proprio con la coda dell'occhio, Porto Roma per vedere chi si qualifica alla prossima fase di Champions League. Eventualmente ci fossero dei gol, li daremo. Nel frattempo arriva anche Peppe Rizzard, che è sempre Rizzard in incognito, perché adesso è Blade Rizzard, che dice Suck My Bitch Up, che è un po' una crasi di tutti quanti i temi. In realtà la canzone è Smack My Bitch Up, però insomma un sack ci sta sempre bene, diciamo. Vabbè, quindi distanza. Parliamo dell'altra morte. Sono morte le noci di cocco. Sono morte le noci di cocco perché, come sapete, quando cascano dall'albero è perché sono morte e i fruttariani se le mangiano. Quindi mangiano cadaveri. le nostre noci di cocco sono morte. È da quando c'è Gusella a Roma che sono morte le nostre noci di cocco. Esatto. Ma io pensavo anche per qualche cosa che era successo nel governo, ma... una sola, in realtà ne potremmo raccontare talmente tante perché io in questi giorni allora, intanto stamattina io sono andato a fare la mia bella fila chilometrica al mio bello ufficio postale dove ho preteso i miei soldi. Bravo. Voglio i miei 780 euro. Tuoi di diritto. Di diritto, perché il mio ISEE fa pena, non c'ho macchine, non c'ho non c'ho nessuna proprietà. E cosa è successo? È successo che non me l'hanno dato. Perché? Perché malgrado il signor Di Maio abbia fatto la solita, come si dice, uscita trionfale, finalmente un'altra promessa mantenuta, in realtà quello che è successo oggi semplicemente è che si possono presentare le domande per ottenere... Però aspetta, tu... Non è tu. No, io infatti ho detto, come chiami, come ti chiami? Asbano, ho detto. Devi dire Bano. È anche vero, ma... Aieie. Aieie a Baso. Mi chiamo Walter Bano. Questo perché? Perché soprattutto nelle poste, Manos, temendo code chilometriche che avrebbero intasato anche le arterie autostradali di pedoni, hanno deciso di scaglionare, quindi si poteva andare a gruppi come quando devi ritirare la pensione, no? La pensione vera e propria, quindi andare alla posta a presentare la domanda per ordine alfabetico. E ovviamente, siccome siamo tutti mainstream, banali e borghesi, hanno cominciato da là. Che comincerà no, mischia, tira, sorteggia come faceva il professore quando interrogava. Ti dice ok, oggi bisogna andare in interroghiamo. Ordine, bisogna andare in ordine, però già confusa. Quindi che cosa è successo? Tutti abate, abatecola, tutti quanti le persone che avevano A e B sono andati a presentare. Sono state tipo 35.000 richieste, per esempio, più di 30.000 richieste. Vabbè, c'era da aspettarselo, però insomma a livello nazionale sono pochine. Sì, beh, ma non è la B. Ho capito, però io 30.000 A e B me le sarei immaginate soltanto in un quartiere popolare di Roma, vista la mole di, come dire, di disoccupati, no, di inattivi. No, scusa, la mole è un po' Torino, più su. Mi scuso, volevo dire, considerando il colosseo di disoccupati che c'è a Roma. Bravo. Vabbè. E capite, perché si dice di massa, ci siamo rotti, no? Cascavi. Poi invece, però, il nostro ministro degli interni ha fatto una cosa buona. Molto buona. Ha chiesto di fare un decreto d'urgenza alla Grillo, che si chiama. Sì, perché siccome il nostro prezzemolino dell'interno deve mettere bocca in tutti i ministeri, esatto, ha chiesto, lui, esatto, diciamolo, ammettiamolo, comanda il nostro Salvini, il nostro capitano Salvini, che ha detto alla ministra della salute, sì, ci saluta adesso, no? Al cincin. Vedete, sentite, la salute ce n'è veramente poca. Di fare una sorta di decreto che permettesse ai bambini non vaccinati di entrare a scuola. Certo, sì. Che problema c'è? Perché devono farsi gli anticorpi. Tanto bambini. C'è l'immunità di gregge. Siamo un popolo di siamo un popolo di pecoroni, dovrebbe funzionare. Mi sembra opportuno. No? Però sapete che noi abbiamo un simpaticissimo contributo che io adesso vi volevo un attimo spendere, se mi permettete. Proprio in merito ai nostri geni di governo, vi volevo far ascoltare questo rap. Cos'è un rap? Un trap? Che gli vogliamo dire? È un rap. C'è il loop. Che ci perseguita. È un loop. E togli il volume, va. Ammutoliscilo. Vi Bra. Faccio sentire il contributo. Venire a casa nostra in campagna elettorale con un programma elettorale la dobbiamo imparare, dicono che si possono fare per cambiare la città, l'incorruttibilità, le famiglie in difficoltà, ci prendiamo la libertà, col 25% scomparirà, ve lo ricordate qualche tempo fa, neanche a fare una carta d'identità, ma quando estinguerà tutte le pratiche che deve fare, una cosa rivoluzionaria, il Movimento 5 Stelle alle regionali è andato bene, referendum comunali, dei sindaci che ha fatto bancarotta in questi anni, tutto avrà a disposizione i consiglieri regionali a dire che un vostro diritto è nel programma elettorale. In questi anni tutti sono venuti da noi per aprire quella porta e far entrare voi. E cosa facciamo? Iniziamo a realizzare quello che noi non abbiamo. Abbiamo a difendere Salvini, evidentemente Renzi, perché evidentemente temono i cittadini. Tu nel mondo reale ci devi tornare, ma non possiamo pensare. L'IRPEF, a livello regionale, L'IRPEF, a livello regionale. adesso io vorrei porre un sondaggio così estemporaneo, senza strumenti, ditecelo in chat. Ma votate per Celenza o per Dodoi, che è l'autore di questo rap? Vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo fatto sentire un altro pezzo fighissimo, quella volta per ovviamente Salvini. Il protagonista era Salvini. Per par condicio abbiamo parlato, certo, oggi certo. Abbiamo fatto ascoltare un brano relativo alla seconda all'altra metà del governo, quella che non conta un cazzo, cioè il Movimento 5 Stelle, insomma, no? E niente, quindi sostanzialmente che succede? Che oggi toni trionfalistici, ma in realtà intanto oggi si presenta la domanda per ottenere il reddito cittadinanza. Poi se tutto va bene, i primi Cato soldi... Ma posso prendere? No! Oh. Lo voglio prendere! Sai dove lo vuoi prendere? Tu, vabbè, comunque dai, per far condicio, insomma, dobbiamo anche parlare che... Lega di Crotone, quota Lega di Crotone. Tu capisci che non riesco a concepire proprio Lega e Crotone nella stessa frase? Non riesco a dirlo io, guarda. Cioè, c'è questo gruppo politico che si chiama Lega, ok, cioè, sto prendendo piano perché è difficile, che ha anche una sede a Crotone. Ma Lega non è una cosa esortativa di bondage, sadomaso? No, purtroppo no. Allora, come quando usi la pasta, non l'acqua della pasta, che Lega. È difficile concepire lo spagnolo. Infatti devi mettere la parola Lega e la parola... Crotone, ecco, non riesco a mettere vicino. Comunque queste due cose, cioè questo partito politico e Crotone, convivono nello stesso punto, cioè, è un po' anormale che questo partito politico del nord sia Crotone, ma comunque ha cercato di dare il suo contributo alla festa della donna, che sappiamo che fa tutto la festa della donna, no? Quindi ci fanno il caffè gratis? Ci fanno il caffè gratis. Ma le danno le caramelline? No, in quello giro? Ne parliamo dopo perché Salvini ha fatto un gruppo a favore della donna. 8 marzo. Chi offende la dignità della donna? La risposta è: chi sostiene una cultura e promuove iniziative favorevoli alla vergognosa e ignominiosa pratica dell'utero in affitto. Chi sostiene proposte di legge anche a livello regionale che tendono a imporre la neolingua che sostituisce termini mamma e papà con genitore 1 e genitore 2. Questo schifo della neolingua, mortacci, eh? Chi ritiene che la donna abbia bisogno di quote rosa per dimostrare il proprio valore? Questo lo penso pure io, insomma. Ma la quota rosa, secondo me, è proprio il contrario di quello che vorrebbe ottenere. Chi sostiene una cultura politica che rivendica una sempre più marcata e assoluta autodeterminazione della donna, che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo? Cioè, donne devono stare zitte, non devono per cazzo. Chi contrasta culturalmente il ruolo naturale della donna, capito? Il ruolo naturale, volta alla promozione e al sostegno della vita nella famiglia. Stai zitta e sgargarozza figli come se non ci fossero domani. Quando non devi fare il caffè, però. Esatto. Chi strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay, per finalità meramente ideologiche, al solo scopo di fare la rivoluzione e rendere sempre più fluida e priva di punti di riferimento certi la società. Ovviamente sti gay maledetti, Vabbè, io a un certo punto confesso di essermi completamente perso, no? Però posso fare una domanda, proprio questa diciamo scende un pochino nel tecnico e fa il paio col fatto, no? No, c'è la conclusione. Ah, scusa, vai, concludi e poi Lega, ti faccio la domanda. Salvini premier non riesco a dirle insieme, scusate. È convinta che la donna ha una grande missione sociale da compiere per il futuro e la sopravvivenza della nostra nazione, perché deve vivere. Non sia pertanto mortificata la sua dignità da leggi e atteggiamenti che ne degradano e ne inficiano il suo infungibile ruolo. Oh, mentre, scusa, si sono incazzate le note. Pier G mi dice Roma sotto di uno, però il ticker di Gazzetta ancora non si è aggiornato. Ticket, vabbè, però. Soffrirò in differita. E, io volevo fare una domanda, no? Posto che poche ore prima... la Lega ha fatto su un'altra battaglia che è paradossalmente opposta, che è quella di riaprire le case chiuse, e poi vi domanderò la vostra opinione su questo. Ok, voglio sapere, Gualdi, ma Musella, ma anche amici in ascolto, perché la figa la possono affittare e l'utero no? Perché non ci fai figli, perché deve essere un figlio italiano 100% contro il doc, e se no non va bene, prima gli italiani. mi sembra logica sta cosa. Dalla prima agli italiani. Dalla prima. Beh, ho capito, d'altra parte, sai, se vuoi fare un figlio dalla figa devi passare. Vabbè, mo siamo sempre a parlare di queste cose, insomma. Beh, puoi fare anche il cecchino volendo. Il check-in? Il check-in, sì. Mm. Ma invece sempre parlando di... No, io volevo donne, fare questa domanda. Delle donne, perché c'è pure quest'altra notizia che per fortuna che ci pensa Trenitalia. Mamma mia, ragazzi. Che praticamente... Non è festa della donna senza una dovuta... celebrazione. Insomma, esatto, celebrazione. Qualcuno, regali, qualcosa di importante. Cosa, se no ce la dobbiamo immaginare la cosa, tutto, la cosa notizie. Ce l'ho chiusa nell'armadio. No, non ce l'abbiamo sotto mano, ma il concetto è che oggi, cioè, chi, le donne che avessero prenotato un biglietto su allora, Freccia Rossa, leggere, ragazzi, allora. Giusto, no? In occasione della festa della donna, il prossimo 8 marzo sui treni Freccia Rossa e Freccia Rossa 1000, ok? Se sei una cliente, scusa, Freccia Rossa, donna. Freccia Rossa 1000 è come per dire Tachipirina e Tachipirina 1000. Esatto, se ne prendi due sono 1000, perché okay. Sono da 500, credo. I Freccia Rossa. Allora, se sei una cliente e viaggi in executive o se acquisti un menu easy gourmet e usufruisci del servizio bar, cioè 200 già euro di viaggio, sì. Okay. Vabbè, che mega premio ci sarà? Hai speso quel tipo 150 euro soltanto la mattina, una collana di diamanti. Esatto. Riceverai in omaggio una caramella gelée Caffarel. Però, regà, al limone. Vai gelea. Al limone. Al limone, mamma mia, cioè. Al limone. Allora, aspetta, vale cioè, tutto, ti regalano vale una confezione di caramelle. No, ma proprio una caramella. Una caramella. Una caramella, certo. Vabbè, raga, ma io, cioè, che vedevo dire? Non, cioè, boh, Trenitalia. Vabbè. Cioè, io, quando fate ste cose, no? Pensate fino a 10 e ripetete quello, sì, che... Ma io veramente sto pensate? Regalando una caramella alla donna, cioè, ma neanche un fiore, vedo, ti regalo la rosa, toh. Ma poi, cioè, non è che dici compra un biglietto, che... Ma poi al limone sommato, perché ti voglio anche dire che sei un po', ti devi stringere un po', sei un po' cagona, cioè perché al limone? Se la vita ti dà caramella al limone, tu fai una limonata. Fai una limonata, esatto. Di caramella al limone. No, vabbè, complimenti. Meno male che ci pensano Trenitalia e la Lega di quel posto lì che sta nel sud. Ma che tone. Ho detto sud, per esempio. Scrotone. Scrotone. Tipo pizzichettone. Esatto. Se non ci fossero loro, insomma, che danno lustro e dignità alla donna, che poi, insomma, cioè, sarebbe un bel problema. Ci stavano rimettendo così tanto con queste caramelle che hanno dovuto pure togliere e fare un passo indietro perché erano finite. C'erano una astuccia, cioè, di caramelle. Stava collassando il sito. Il Caffarelle che ho trovato, ve do 10 caramelle e fate per andare bene. E poi mi fa pensare al parco della Caffarella, però vabbè, insomma. Ma guarda, sarebbe anche stato meglio. Vi facciamo fare una gita al parco della Caffarella. In effetti, ci dice Davide Gatti due volte, perché, come dire, abbondare è meglio che deficere. Che la cosa più triste è che su tutta questa cosa ci hanno fatto una campagna marketing grossa. Quindi ci hanno speso più per il marketing che per le caramelle. Vabbè, io vi dico soltanto una parola, Adrian. Beh, vabbè. C'è chi ha fatto peggio, insomma, non gli è costato 20 milioni. Non ricordiamoci. Tra l'altro, sapete che leggevo proprio oggi che pare che le uniche fonti dove sia possibile reperire il primo ed unico episodio che si trova in rete di Adrian, visto che Mediaset li ha fatti sparire nel nulla, sia un sito porno, probabilmente Pornhub, sì, non l'hanno citato, nella categoria hentai, anche se poi gli estimatori di questo genere specifico si è anche lamentato dicendo che come hentai fa un po' schifo. Fa poche gare, insomma. Vabbè, sì. Comunque in ogni caso è bello, perché Pornhub in passato ci era regalato tante cose, come il gioco tipo gameplay, il gioco trafugato di Amazon, esatto. Sì, quindi lì ci mette un po', perché è porno anche quello, in altri modi. Eh sì, è una perversione. Una perversione. Se voglio dire, se film con, come si dice, quelli coprofagi fanno, se più coprofago di quello. Necrofagi. Sì, la necrofilia dopo, insomma, quella viene dopo. No, però ragazzi, volevo sottoporre la vostra attenzione, volevo coinvolgere il pubblico su una domanda. È un tema sicuramente scottante, sul quale io non riesco a prendere una posizione netta e diciamo definitiva e definita, riguarda appunto il discorso che faceva Salvini e la Lega di riaprire le case chiuse o comunque sia di legalizzare in qualche modo la prostituzione. favorevole. Allora, aspetta, cerco di creare un contesto, perché da un punto di vista, diciamo, della mercificazione della donna, il fatto che, al di là del fatto che una donna si voglia o meno, diciamo così, concedere a pagamento, che il fatto di creare, diciamo, dei bordelli, dei postriboli, eccetera, può essere, diciamo, lesivo della dignità e della libertà, perché in qualche modo poi diventi, tra virgolette, oggetto di, diciamo, diventi strumento di una fornitura di un servizio che non controlli tu, mettiamola così, no? Dall'altra parte, però, l'alternativa unica e sola è la prostituzione controllata, con ragazze alle volte anche giovanissime per le strade, alle volte, anzi probabilmente spesso, non consenzienti, quindi costrette, poi non lo sappiamo, e senza controlli sanitari, e soprattutto in maniera che tutto questo venga fatto evadendo completamente le tasse. Ora, tra le due, e finanziando la criminalità. Esatto, vabbè. Ora, tra le due, come dire, qual è il male minore o qual è la soluzione equilibrata? Visto che la prostituzione, come tante altre cose, è vecchia come il mondo e non la potrai in nessun modo mai, come dire, debellare. Puoi solo guadagnarci. A questo punto, da un punto di... io non so, ovviamente in chat oggi non ci sono amiche, quindi non possiamo chiederlo. Beh, però mi domando, un punto di vista del, come dire, delle donne, dei nostri gruppi, delle nostre chat, in merito alla possibilità, allo scenario di riaprire le case chiuse, o comunque sia di regolarizzare in qualche modo la prostituzione. Finora Peppe Rizzard ci dice sull'argomento: taccio, tutto quello che dico potrà essere usato contro di me, e io so che sua moglie è Manesca, quindi... Io allargo la cosa, insomma, la prostituzione, vai, allargala, non quella da femminile. Sì, tra l'altro, sì, esatto, poi in realtà uno non deve fare questo discorso, perché concettualmente la prostituzione può essere donna verso uomo, uomo verso uomo, uomo verso donna, animali, bestie varie. Cattura la bandiera, tutti contro tutti, esatto, death match a squadre. Quota rosa. Basta che tu ci metti dentro la quota rosa ed è tutto regolare. L'importante è che quindi basta che un tot di prostitute, di operatori, operatrici sessuali, siano donne o donne, va bene. Cioè, dovrebbe essere legale. Comunque, è un tema faticoso. Io sono assolutamente a favore, così almeno ci guadagniamo sopra. Secondo me, tanto comunque la donna, se ti vuole inculare, ti incula. Se un uomo o una donna vuole prostituirsi perché ne ha bisogno, perché vuole fare i soldi, vuole fare una bella vita, o soprattutto perché gli va, ma può capitare, cioè lo fanno gratis. No, lo fanno, cioè, chi non lo fa è mai gratis, Marco. Vabbè, però in ogni caso, diciamo, non è così da emissioni di fattura, insomma, in ogni caso. Quindi io sarei comunque d'accordo potenzialmente, non solo perché limiti la proliferazione di malattie, limiti la proliferazione della comunque malavita, perché controlli chi lo fa e chi non lo fa, e soprattutto stai attento che non ci siano minorenni e che non ci siano degli abusi ulteriori alla prostituzione, che ci fai soldi, insomma, ragazzi. Guarda, io ci riflettevo l'altro giorno guardando sul canale YouTube di Fanpage un'intervista a una ragazza italiana che ha deciso di andare a fare la prostituta legalmente in Germania, perché in Germania è legale, e lo fa, credo, se ho capito. Non c'è bisogno di andare in Olanda. No, no, ma basta andare in Svizzera. Basta superare. Okay, Gusella sicuramente ci va. Ok, ok, vabbè, ho fatto il pieno alla macchina per niente. Pazienza. No, dicevo, questa ragazza, insomma, raccontava, al di là del fatto che pare che lei, a detta sua, praticamente lavori un paio di ore a settimana, non di più, ad una tariffa evidentemente proporzionata che la fa stare economicamente bene, e fa queste, diciamo, una sorta di prostituta di alto bordo, non saprei neanche bene come dire. Ma la cosa che mi ha, diciamo, meravigliato di tutta questa storia è che lei racconta tutta una serie di retroscena, di tipologie, del fatto che, insomma, la cosa può essere vissuta in maniera anche piuttosto normale alla giornalista. Io più la guardavo questa e più mi dicevo: cacchio, però te potevi lavare i capelli. L'unica cosa a cui pensavo, perché aveva i capelli insognati. Beh, magari se li lavati con un qualcosa che sembrava sapone, che faceva schiuma. Non è sapone, però. Sì, può darsi, che non lo sapevo mai. Comunque sì. Ci dice Peppe Rizzard, anzi si rivolge specificamente a Gualdi, e dice: Gualdi, la fattura te devono fa la fattura e pagare i contributi. Certo. Però scusa, posso dire una cosa? Ma poi scatta il meccanismo come col tassista, no? O col medico specialista, ti fa la visita. Senza fattura o con fattura? Tu che scegli? Con fattura 50, senza fattura 30, dico tariffa a caso, che tu che scegli? Beh, senza fattura. assolutamente senza fattura, però che c'entra? Ma infatti l'unico, oppure ti fai scaricare poi le spese. L'unico modo che hai probabilmente per regolarizzare anche, diciamo, il flusso finanziario, il flusso di tassazione sulla prostituzione, sarebbe quello proprio di creare dei bordelli. Già se lo fai, diciamo, in maniera autonoma, come lavoratore autonomo in casa, è un problema. Non lo farai mai, perché nessuno può venirti. Chi è? Ciao, sulla finanza, che stai a fare, mignotta? Mi spiace, no, è chiusa. Casa è chiusa. Quindi ovviamente deve essere legalizzata in questo modo. Beh, poi c'è anche tutti i casi, ci sono quelli, i furbi, quindi c'è anche tutto un discorso anche di sanità, se vogliamo dire. Cioè, una che lo fa come lavoro, diciamo, riconosciuto, comunque penso che abbia anche un certo dovere di... Beh, dovrebbe avere, essendo contribuente e pagare le tasse, quantomeno l'accesso, diciamo, al sistema sanitario per tutto quello che riguarda appunto la profilassi, la cura, l'attenzione, eccetera. Peraltro dicono che nei paesi tipo la Svizzera, la Germania, dove appunto questo mestiere è regolamentato ed è legale, ci siano comunque dei controlli sanitari di una certa importanza. Ora, certo, non sta per forza, ma poi tra l'altro evitiamo proprio il via vai di gente che per la strada inchioda, e praticamente crea incidenti, perché cioè, quante volte a Gusella, no, perché non ha sperimentato la salaria. Credo. No, Gusella va a lavorare sulla salaria, però probabilmente mattina, lui esce. No, ma sai che c'è? Che lui esce prima della zona dell'ex Sky, dove ce n'erano tante. Esatto, ma poi tra l'altro. Beh, però già qualcosa si vede. Anche perché la mattina vai quasi a passo d'uomo, insomma, abbastanza esattamente. Ma la sera, che magari puoi andare un po' più veloce, ti trovi il deficiente davanti che te inchioda perché deve andare a mignotte. Non è bello, insomma. Dicelo a Bifrontali, che non ha un ragionamento articolato sul discorso, però a caldo ci dice che è favorevole anche come libera professione. Però si domanda quale denominazione avrebbe come codice ateco. Beh, credo operatore sessuale, operatore del sesso, qualcosa del genere, insomma. Operatore del piacere. Secondo me sesso è più specifico in questo caso, perché piacere può essere ambigua come definizione, non lo so. Amici in chat, quale codice ateco vorreste dare alla professione, alla libera professione del meretricio? Meretrizio, come si dice? Non lo so, mentre lo dicevo mi sono reso conto che non lo sapevo. Se voi dateci delle idee, noi le faremo presenti al ministro Salvini, che riaprirà le case chiuse per noi, insomma. Beh, secondo me per lui soprattutto, perché sapete, lui adesso è single, ha ricominciato a fumare, insomma, mi è un po' stressato probabilmente. Ha ricominciato anche a mangiare per lo stress, giusto? Ma non credo abbia mai smesso, insomma. Quello no, infatti. In ogni caso. Pepe Rizzardo ci dice codice 69, giustamente anche quello potrebbe essere. Samantha, giù a 90. Io direi di cambiare argomento, perché questo sulle mignotte è stato molto bello. Anche Roberta. Noi dobbiamo lanciare, ragazzi, dobbiamo lanciare il nostro tormentone, perché abbiamo da raccontare delle cose anche su di lui. Perché, signori, a Trump non gliene va bene una, non so se ci avete fatto caso. Che è successo? Ma per esempio è successo che c'è stato questo summit da noi in Vietnam con Kim Jong. Che è quel posto fascista? Comunque, dovevano mettersi d'accordo, chissà su che cosa, massimi sistemi, disarmo nucleare, fine dei dazi, eccetera. Come si doveva mettere d'accordo sulla pregna? Ma mi sa che non si sono messi d'accordo. Poi si doveva mettere d'accordo, continuavano a discutere, insomma, continuavano a sbuffare, va a finire che tra noi. Guarda, io ho l'impressione che non si siano messi d'accordo su chi doveva fare il maschio quel giorno. E secondo me doveva farlo Trump. Comunque dalla chat Trump ci fanno notare che siete un po' fascisti, siete fatto sta che questo muro non glielo fanno fare. Sì, spieghiamo per chi si è collegato dopo. Siamo consapevoli del fatto che il microfono che usiamo io e Marco sta sul canale destro, quello che sta usando Simone Gusella le rare volte che parla è a sinistra. Però sul canale comunista, diciamo. Il problema, lo ammettiamo, non sappiamo bene perché abbiamo allestito lo studio all'ultimo momento. E il mixer che stiamo usando è un po' strano. Microfoni rossi, maledetto comunista. Cazzo, è vero, voi avete il microfono tutto nero. Non a caso a destra. Ma noi ormai siamo allineati al volere popolare, insomma, abbiamo capito anche come. Anche se questo è un po' un arancione, dire. Un po' smorto, vabbè. Che il comunismo è morto. Esatto. Tra l'altro, finalmente c'è un nuovo segretario nel PD. Non sappiamo se andrà. Che è il fratello dell'attore Montalbano. Anzi, perché siamo contenti di questa cosa. Perché Montalbano sono. Montalbano sogno, sì, infatti. E invece, ragazzi, sapete che io adesso non ho il contributo, proverò a cercarlo, perché sempre perché dobbiamo parlare di argomenti a noi familiari, e vi metto anche un'altra sigletta. Runtime Radio. L'angolo dello sport. L'angolo dello sport, perché non so se lo sapete, ma abbiamo l'opportunità di parlare di nuovo di Cassano, che è intervenuto parlando di Wanda Nara. Non so se sai tutta la querelle che ha a che fare con Wanda Nara. Per la storia di Icardi che non gioca, sarebbe colpa della moglie, a tutto lo spogliatoio contro, eccetera. Ebbene, Cassano, interpellato su questa questione, praticamente ha attaccato durante un programma televisivo, credo a Mediaset, Wanda Nara, dicendo una serie di cose, una più saggia dell'altra. E strano, sì, io adesso andrei un attimino a trovarvi il contributo, perché secondo me ce lo dobbiamo godere. Vai, videalo. Lo videiamo, siete pronti? Stop anche il loop a te. Spero che sia l'ultima volta che parliamo, si parla di questa situazione. Non credo. Che lei gli ha creato attorno terra bruciata con le sue dichiarazioni. Parliamoci chiaro, ok? Senza far giri di parole, chi ha messo in difficoltà i cavi. Ma qual è la dichiarazione fuori luogo? Parli troppo sui social. I social, che parli di Spalletti. Ma se io che non deve... parlo di formazione ma nel sì, social, ma deve... non l'altra volta anche qua Twitter. Deve giocare Lautaro con Icardi e fai l'allenatrice. Ma io un suggerimento, deve... Ma se tu parli come sempre... le posso dire a Giro allora, posso dire una cosa? Guarda, qui ha parlato da opinionista all'inizio dell'anno giocava e scherzava con Mughini in maniera molto divertente, c'erano anche tanti interisti felici. Il punto fondamentale però è, adesso c'è un problema. Scusa, positivamente, sapendo che noi siamo ovviamente una famiglia interista, sempre ho detto cose positive. Ha creato tutto sto disastro è stato lei, uno. Per me, parlando tanto, secondo me, questa è l'opinione che ho io, giusto o sbagliato che sia, che ha messo in difficoltà lui. Tu che consigli a Mauro adesso? No, e alla società. No. Io non devo consigliare niente a nessuno, perché non è che sono nella testa sua. Due, il problema più grande è che gli hanno tolto la faccia, un motivo ci sarà, altrimenti Spalletti, Ausilio, Marotta, Zang, non sono matti, qualcosa è successo. Tre, prima aveva male, poi quando gli hanno tolto la fascia gli è ritornato il male. Allora, siccome le sceneggiate le facevo io quando avevo 20 anni, se lui vuol giocare, giocasse, perché adesso questa è una situazione di non ritorno. A giugno, in un modo o nell'altro, cioè, deve andare via. A giugno, in un modo o nell'altro, se avessero tolto la fascia di capitano, ma cosa avresti fatto? C'avevo 20 anni. Ma cosa avresti fatto? Spalletti ha fatto il giochino a me anche. Giuseppe, a 20 anni l'ha tolto anche a Giannini a Roma, che l'aveva, gli ha tolto Spalletti. Ma non in questo modo, da fare romantico. Scusate, posso sapere questa cosa di Spalletti? Che non smetti di giocare perché ti tolgono la fascia? Detto questo, io avevo 20 anni, facevo il vice capitano a Roma. 20 anni. Dopo Totti, lui è arrivato nello spogliatoio. Quando è arrivato, ha detto: da oggi tu non fai più il vice capitano. Perché per me tu non sei un esempio. Che avevi fatto? All'epoca ho fatto un disastro. Spalletti all'epoca. A me. Ah, un problema. Ma no, che avevi combinato? Parlo con me. E giustamente. Non mi conosceva, però aveva ragione. Io non sono un esempio. Poi mi ha spiegato determinate cose che lui vuole: chi arriva prima, chi si allena bene, chi è una persona come si deve, che va dritto per la sua strada. E come ha fatto bene? Se ha fatto questo movimento qua, qualche motivo ci sarà. Non è che sono diventati matti, certo. Due, è la cosa più importante, che prima aveva male, adesso è giocava. E qual adesso... è il motivo grave secondo te? Perdoni, non lo so, è un problema vostro. Ma qual è il motivo grave? Il problema è che adesso, se lui non torna a giocare, a giugno, indipendentemente, e deve andare. Vabbè, ok, un altro discorso. Questo deve andare via, c'è la forza. Vabbè, insomma, ragazzi, avrete capito che il buon Cassano, a parte la perla, sto parlando con me, che sono le frasi che solo Cassano sa dire, ha detto tutte cose sagge. Io mi sono quasi commosso quando l'ha detto, quando ha fatto questa sorta di implicita autocritica, dicendo: io a 20 anni, ma pure a 30 in realtà, ero una testa calda, per non dire di peggio, e quindi facevano bene a darmi addosso, a togliermi la fascia poi sta cosa di vice capitano, io non la so, la famosa fascia di vice capitano che si mette attorno all'uccello di solito, normalmente. Però è stato bello che gliel'hanno tolta, perché lui ha detto: sì, me l'hanno solo meritato, insomma. Intanto De Rossi ha pareggiato sul rigore e non c'era arrivata, sì, la notizia. È facile, però, così vabbè. Sul rigore, però. Vabbè, ci vuole un po' di rigore nella vita. Facile, perché sennò non è possibile. E quindi niente, questo ha dimostrato che anche Cassano quando vuole, o con la terza persona di se stesso, quando vuole riesce a dire delle cose sensate. No, ma io ho paura di un'altra cosa, che se persino Antonio Cassano riesce a dire una cosa più saggia di Vandanara, fate una domanda Vandanara e date una risposta. Sarebbe troppo difficile, questo sarebbe difficile, questo sarebbe... Che poi uno non vuole, anche qui non vuole essere, come dire, maschilista, antiquota rosa, eccetera. Però, detto onestamente, Vandanara, secondo me, tutto può fare, meno che la procuratrice, o perlomeno non deve essere la procuratrice del suo uomo, perché mi sembra che ci sia un conflitto di interessi abbastanza palese, no? Ma varrebbe per qualunque altra situazione. Secondo me, tua moglie, tuo marito, non ti può rappresentare. Peraltro se nel frattempo fa anche, diciamo, l'opinionista in televisione, perché però si crea tutta una serie di contrasti, di conflitti di interesse, ma anche di sovrapposizioni che non vanno bene. Comunque io sono d'accordo, tutte le persone al mondo possono fare ciò che vogliono, perché dentro di sé lo sanno che ci hanno ragione. Possono affittare il loro corpo. Esatto, ma non l'utero. Ma può succedere anche che tu magari vivi in Repubblica Ceca e adotti due leoni. Li adotti perché ti piace, ma perché sì, tu è sei bello, sicuro dai. Che i tuoi leoni, ma devi essere adottati. Ricco, perché quelli mangiano, c'è niente di male, ma lascia stare, cioè, tu lo adotti e praticamente perché tu sai come trattare i leoni, anche se ti vietano di portarli con te perché sono due leoni, sono animali feroci, non puoi portarli nelle gabbie, portarli in giro a guinzaglio. Poi che succede? Succede che magari ti ritrovano sbranato, però può succedere, è successo. Capita. È successo a Zjezov, vabbè, comunque è una cittadina della Repubblica Ceca, dove questo tizio di 33 anni, quindi anche Gesù Cristo, questa figura cristologica appunto, è finito che praticamente se lo sono magnato i due leoni. Michael Prasek è stato ritrovato appunto morto all'interno della gabbia, dilaniato da che Dylan infatti è qui dilaniato dai propri leoni. Però purtroppo, cioè, può succedere quando sei convinto di stare nel giusto, poi è un po', il salto della fede, no, per rimanere in ambito di videogiochi. Se sei convinto, è arrivata Michela De Paola che dice: mi sono persa tutto, ci saluta, dice Raga Pao. Anche, ricordiamo che anche Michela oggi è, come dire, vittima di uno stato influenzale, quindi la salutiamo. Comunque attenzione, un'ultima ora riguardo Trono di Spade: Martin non ha letto lo script della stagione finale, quindi potrebbe esserci la merda totale. Quindi del resto è il problema che la serie TV è andata più avanti dei libri, era noto, quindi... Esatto. Ma sicuramente gli avrà anche dato degli indizi per andare in direzione completamente diversa da quello che poi sarà il reale finale. A parte che, considerando la flemma con cui sta scrivendo Martin, può darsi pure che fa la fine di Asimov. Io Martin te l'ho detto, lui sta aspettando di morire. Cioè lui, la sua più grande beffa, oltre a fare morire tutti i personaggi a cui uno si affeziona, è quello di arrivare all'ultimo libro della sua, come si può chiamare, opera, maxi opera, e morire prima di completarlo. E allora io vi posso solo augurare di morire come Joffrey Baratheon, che non sappiamo, ma insomma spero sia una morte truculenta. Joffrey Baratheon è morto di veleno, morto male. Sì, però, cioè, sì. È morto male. Quindi... Morto male. E volevo dire che Peppe Rizzard, che è arrivata Michela, ma stai trasmettendo una allora, non rompiamo le balle. Allora la prossima volta non ti ammalare e veniamo a casa tua, ecco. Scherzo, eh. No, dicevo che Peppe Rizzard faceva un paio di battutine su Vandanara. Dice: intanto, riferendosi a Cassano, diceva: sto parlando con me, is the new muta cretina. E tutto sommato, forse il senso vuole essere quello. E poi ci dice: vabbè, insomma, in maniera un po' meno, come dire, che se lo diciamo ad alta voce, riattribuiamo alla frase, probabilmente viene percosso dalla moglie. Però dice: Vandanara può fare un mestiere che fa rima con procuratrice. Esatto. Educatrice. La truccatrice. Truccatrice. Invece la Corea del Nord sembra che stia ricostruendo un sito per lanciare missili. Vabbè, tanto... Ma sito web, cioè sito tu web, schiacci i pulsanti e lanci missili. Missilone.com, esatto. Perché poi, oltretutto, ragazzi, parliamoci chiaro, secondo me tutta questa fase di distensione dei rapporti serve soltanto a buttarla in caciara, mentre sotto banco loro continuano a tentare di fare queste... Solo che quando fanno questi esperimenti si fanno danni su danni, se li fanno da soli, quindi boh. Onestamente, con tutta la fiducia che possa avere, è ovviamente solo ironico, sul regime, sulla tecnologia del regime, diciamo che fare una bomba atomica, una testata nucleare con un missile vettore che sia a lungo raggio non è proprio da tutti. Ma sì, dai, cioè Io non ci sono riuscito col piccolo chilo chimico, per esempio. Comunque, cioè, dal web però ci arriva una richiesta d'aiuto, perché il presidente brasiliano Bolsonaro, dobbiamo rispondere tutti quanti l'amico Twitter, di Salvini, chissà che domanda interessante di economia ci avrà proposto. Ha chiesto che cos'è una pioggia dorata, una golden shower. Una golden shower, sì. Chiediamo agli amici in chat, beh, che cos'è una golden shower? Cioè, allora, twittate a Jair M. Bolsonaro, che sta su Twitter, e rispondeteli in portoghese, però, ovviamente. Allora, c'è un bellissimo documentario. È pieno di video che ti spiegano come è fatto. Tu devi accendere lo stereo col volume molto alto e poi aprire il primo video relativo alla golden shower. Giusto? Così, giusto, giusto. Ok, allora, noi sono vediamo il sottofondo video musicale. Voi aprite YouTube e cercate... Ma lo troviamo Golden Shower su YouTube o serve YouPorn? Aspetta, ci dirompa. Beh, penso che qualcosa si trovi un po' ovunque. Anche magari un po' poco esplicito, ma si trova ovunque. Chissà. Vabbè, ragazzi, che dire? Allora, facciamo una cosa, facciamoci una piccola pausetta musicale e vi facciamo godere ancora una volta delle meraviglie dei prodigi. Noi riposiamo un attimino le ugole, che in questa particolare serata sono un po' messe a dura prova, e quando torniamo facciamo un attimo il punto della situazione. We'll be right back. Vabbè, dai, invece di farla sfumare, rientriamo. Dunque, mi stavo facendo una domanda. Nel frattempo c'era uno stranissimo rientro di cui poi vi daremo conto. Hai dato un pugno sui pettorali. Scusa, ho menato Gusella per la gioia di tutta gli amici in chat. Finalmente. Si picchia, si mena. No, ma a proposito di essere picchiati, ma voi avete questi bei ricordi della TV degli anni fine 80, primi anni 90, quando c'era questa ragazzetta giovane, anche sapone, carina ma non bella, brava ballerina, che rispondeva al nome di Lorella Cuccarini, che aveva fatto i programmi con Pippo Baudo, poi è andata a Mediaset, insomma, avete presente, no, il personaggio Lorella Cuccarini, che in quanto testimonial vola, di Scavolini, vola, tedesco vola, quello che innamora, no, quella era Giannini. Vabbè, sì, ma non ho capito che c'entra il tedesco con la Cuccarini. Vabbè, comunque la Cuccarini, insomma, avete inquadrato la Cuccarini, che in quanto testimonial di Scavolini era la più amata degli italiani. Esatto. Ma, ragazzi, ma che gli è successo? Perché è completamente fuori di testa. È diventata sovranista. Sì. Vabbè, può succedere. Ci sta quando non voti da 10 anni in un paese, ci sta. Ma veramente non so se avete avuto modo di ascoltare le sue ultime uscite pubbliche, a parte la Cuccarini, cioè, che è Billy Gru, ma non che deve uscire, però al di là del fatto che, insomma, la Cuccarini vada ad un programma di attualità politica, che è quello di come si chiama il programma di Billy Gruber, 8 e mezzo, credo sia 8 e mezzo, sì. Ecco, cioè, intanto mi pare un pelino fuori contesto. Giustamente dice Michela De Paola, è la nuova Iva Zanicchi. Però no, Iva Zanicchi perlomeno Iva ha fatto Zicchinicchi, c'è scritto. Ah, via Zicchinicchi. Però Iva Zanicchi, se non sbaglio, l'europarlamentare per Forza Italia, almeno ha provato a farlo. Lorella Cuccarini perché parla di politica? E soprattutto perché dice castronerie tipo che in Italia non si vota da almeno 10 anni? Figura epica, figuraccia epica, perché ovviamente nell'imbarazzo di tutti quanti gli altri ospiti di Lee Gruber le hanno dovuto spiegare che per legge una volta ogni 5 anni si vota per formare il governo. Poi se il governo che è stato eletto dal popolo cade, si rimpasta e altre cose, ok, si può fare, però con una scadenza temporale di massimo 5 anni si deve assolutamente votare. Lei li ha fatti diventare 10. La cosa bella è che quando poi ovviamente si è sentita accerchiata e attaccata da tutti i fronti perché ha detto sto cazzatone, la sua linea difensiva è stata: rivendico il diritto di dire cazzate. Non ha detto cazzate, ha detto rivendico il diritto di dire stupidaggini, insomma, nel senso di fare degli errori. Sì. Ma giusto, no? Ma anche un dovere fare degli errori, secondo me. Lo stesso errore che ha fatto un santone indiano qualche giorno fa, ha fatto un grave errore perché Gusellach, no, praticamente è uno di quelli che fa tantric, cioè quelli che fanno cose tantriche. Sì, che ho sentito sta parola, ma non saprei che cos'è. Non c'entra niente scopare per ore e ore e ore, no, non c'entra niente. Cioè, questo tizio che si sono quelle quantiche che lo fanno tantriche. The Rai Carol, l'uomo indiano, The Rai Carol è un tantric, ha vissuto alcuni anni in un villaggio nel Karocho Kakeda, che nel Rajasthan, famoso, se lo dici, famoso, ci cioè siamo andati l'anno scorso, Rajasthan, no, è vicino. Ah, dove abbiamo mangiato quei cosi? Esatto, è un po' pesante perché ho dormito tutta la notte. Sì, sì. Però la scorsa settimana ha annunciato che aveva praticamente un programma di seppellirsi vivo, okay? Ed era parte di un rituale per ottenere il samadhi, cioè la salvezza, ed essere resuscitato. La salsa samadhi? Esatto, ed essere resuscitato come un dio 3 giorni dopo. Okay. Beh, la so già come è andata a finire questa, perché l'ho letta in un libro. Aspetta, no, questa è recente, questa è nuova. Ah, è remake. Era il remake, era un reboot. Che succede? Invece, appunto, i suoi concittadini invece di: ma che cazzo stai a dire? Cioè, giustamente tu che fai? Dice: che cazzo stai a dire? Ma che te lo sei nato? No! Che sei scemo? Questi che sono infami, hanno detto: bravo! Vai, provaci! Anzi, ti copriamo noi, ti diamo una mano. Bravo! Quindi hanno scavato una fossa. Insieme a lui contento che questi stanno a fare la fossa, che figo, mamma mia, mo li cogliono tutti. Esatto. Praticamente lo hanno seppellito in questa fossa seguendo le sue istruzioni, perché mi dovete seppellire, no, così, perché c'è una procedura. Esatto, mi dovete seppellire in un certo modo. E praticamente lo hanno chiuso e ci hanno messo una bella lastra di pietra sopra col fango per non correre i rischi, per non chiudere bene. Praticamente sono venuti anche altri abitanti di villaggi certo. I village people sono arrivati di fango e pietra, e hanno iniziato a pregare sul posto, perché giustamente c'era questo, tanto lo preghiamo, eccetera eccetera. Che è successo però? La preghiera è speriamo che non arrivano le guardie, immagino. Esatto. E invece no, perché sono arrivate le guardie, perché praticamente si è diffusa sta voce, perché dai villaggi vicini è arrivata diciamo la voce al locale centro, sì, alla stazione, i pizzardoni del posto indiano, che ha detto andiamo un po' a vedere sto coglione che sta a combinare. Praticamente la gente ha detto, ma che niente c'è uno là sotto, sì, no, ho detto sì, però non lo puoi disturbare perché sta lì che deve diventare Dio. Quindi ho detto no, guarda, forse è il caso di tirarlo fuori, insomma c'è stato un po' di marasma, alla fine sono riusciti ad estrarlo dalla tomba ed era quasi cosciente, cioè stava quasi per diventare Dio, però purtroppo glielo hanno impedito, cioè gli hanno rovinato l'ascensione. Sì. L'ascensore era rotto, giustamente. Ragazzi, voleva, sono cose che succede, cioè metti in conto di diventare Dio in un paio di settimane, ti alleni e poi ti arriva uno stronzo e ti dice, vedi, invece di velenare Sant'Antonio col vino, noi potremmo fare una cosa del genere per le celebrazioni, facciamolo con gli altri annuali, però. No, cioè tipo ci riuniamo sotto al giardino comunale, sotto al palazzo comunale, scriviamo una bella buca, che ne so, facciamo immolare il sindaco, va bene? Le buche già ci stanno, basta, esatto, basta riempirle, esatto. Vabbè, invece che cosa è successo? Per esempio delle notizie strane che andiamo a vedere nei siti strani. Che no, scusa, quella che ha detto adesso non ci trovo niente di strano. Assolutamente no. Infatti, per trovare qualche cosa di strano. Ognuno ha il diritto di seguire il proprio Dio. Esatto. Che è se stesso. Rivendico il diritto di dire stupidaggini. Allora, una madre, indovina di nazione? Che... Pancina? No. No, e allora che nazione può? Non lo so. Cina. Ah, Pancina, solo Cina. Pancina, solo Cina, infatti. Fatto, praticamente finto il rapimento del proprio figlio di 11 anni per vedere se il marito le volesse bene a lei e a figlia, appunto. Quindi capisci? Allora, io sto cercando di leggerlo adesso per capire, perché non riesco a capire questa cosa. Questa donna di circa 33 anni, di nome Chen. Dai, costi 33. La chiameremo Chen. Certo, nome di cioè, fantasia. 55 milioni di Chen donne, poi c'erano altri 150 uomini. La polizia che suo figlio era stato visto per l'ultima volta vicino alla scuola e gli ha dato descrizioni appunto di come si vestiva. Ovviamente c'è, cioè, priorità assoluta, la polizia, dove trovare sto ragazzino? Dicendo mortacci, i cinesi sono tutti uguali, e mo come lo troviamo? Per fortuna che ci ha detto che questo si è vestito come in cinese. Esatto. Quella cosa, cioè, porco zio, insomma. Ovviamente è successo un casino, gente che è andata a cercarlo, ha offerto anche delle ricompense per trovare appunto questo bambino. Praticamente, mentre qualcuno credeva che sto bambino fosse morto, poi si è scoperto che in realtà stava dentro casa, a casa del parente. Così. Vabbè, adesso l'abbiamo fatto l'antefatto, non è? Cinque giorni dopo l'inizio delle ricerche, probabilmente la polizia ha scoperto che sta Chen aveva mentito. Le telecamere di sicurezza di un parcheggio vicino alla scena del presunto rapimento, insomma, hanno fatto vedere che la madre diceva al figlio di andare ad aspettare un'altra macchina, quindi che indicava di andare un'altra macchina mentre lei andava a fare la denuncia di scomparsa. Dopo aver fatto appunto una ricerca sul lato autorizzato, la polizia ha praticamente rintracciato il proprietario e scoperto che solo questo ragazzino stava da un parente. La donna ha dichiarato che ha inscenato il rapimento di suo figlio perché recentemente aveva litigato con suo marito e voleva mettere alla prova il suo amore per loro. Normale. No, ora, al di là di tutto, ma non ho capito, il marito cosa avrebbe dovuto fare? No. Vestirsi da Superman, volare sulla città a cercare il figlio? Avrebbe dovuto riempirla d'amore. Neanche avrebbe potuto dire che bello, adesso ne facciamo un altro, perché come sapete in Cina c'è il controllo. C'è ancora il controllo delle nascite, no, in Cina? No, l'hanno levato. Ah. Perché ha detto, perché dobbiamo controllare le nascite quando possiamo spopolarci, come adesso si dice? Controllano i giannati, spargersi ai quattro venti come Onan. Esatto. No, tra l'altro volevo agganciarmi, visto che così possiamo anche parlare un pochino di cinema e TV, perché Michela ci dice magari è come il ragazzino rapito di Shameless. Dovete sapere che la nostra amica De Paola ha da pochi giorni scoperto Shameless, che è una serie che è arrivata, se non erro, alla produzione della nona stagione, che sarà l'ultima, che racconta la storia praticamente di una famiglia disastratissima di una città americana neanche troppo ricca. Loro pezzente. Non ricordo se stanno a Chicago, se stanno a Boston, non me lo ricordo mai. Comunque sono una di queste metropoli americane. Loro sono la classica famiglia di origine irlandese, ma sono disastrati perché praticamente il padre è, diciamo, alcolista tossicomane, con tutti anonimo. Quanti con tutti quanti. La moglie viene picchiata. La moglie, allora non voglio spoilerare nulla perché Paola, Michela ha visto solo le prime puntate. Io l'ho vista tutta, quindi non le voglio dire nulla. Quello diciamo che all'inizio della serie, insomma, della madre non è che si sappia poi tanto. E ci sono una serie di figli che, diciamo, poi nell'arco di 9 stagioni, alcuni partono che sono veramente bambini, li troveremo diventare più, diciamo, adolescenti, tardi adolescenti ed anche adulti. E ne fanno di tutti i colori, perché poi sono tra quello bipolare, quello che è di colore perché è nato da un'altra relazione, quello che è gay, quello che è questo, quello che è quell'altro. Insomma, sono una famiglia di un disastro unico, sempre a fuggire dagli assistenti sociali, vivono in una casa bettola piena di sporcizia. Sono veramente i senza vergogna della, diciamo, che possono rappresentare una famiglia americana disastrata. Aspetta, ma dillo bene, perché uno è bipolare, l'altro è di colore, e poi c'è un'altra ancora che è bipolore. Dai un altro cazzotto sulle palle. Stavolta esatto, io do sulle noci di cocco. E sulle palle calde. La cosa. Oh, intanto c'è raggiunto Leo Vargion, che salutiamo. La cosa bella è che questa serie, bella o brutta che dir si voglia, è che questa serie è anche abbastanza esplicita. Quindi, diciamo, non mancano scene di nudo, scene di sesso, scene anche scioccanti, di forme un pochino violente. Per tanti versi, insomma, è una serie veramente veramente particolare. Peraltro l'attore, uno degli attori protagonisti, che è il capofamiglia, che è l'attore William H. Macy, ha vinto dei premi, credo dei Golden Globe, per l'interpretazione di Frank Gallagher in questa serie. No, veramente un personaggio complicatissimo da recitare, perché sono proprio degli zozzoni da un punto di vista proprio di mancanza di igiene personale, di scorrettezza, di mancanza proprio di fair play. Insomma, sono personaggi veramente veramente assurdi, veramente tutti borderline, sperdognati. Però la serie è fatta veramente, veramente borderline bene. In Italia credo si possano vedere tutte le stagioni, credo su Infinity, non vorrei sbagliare. Io le prime stagioni le ho viste quando avevo Infinity, e poi le altre ovviamente le ho dovute recuperare diversamente. E siamo alla nona, che è in produzione quest'anno, che chiuderà l'arco narrativo. Leo Vargion ci dice: mi fate un riassunto della puntata, per favore? Guarda, è facile, io e Marco parliamo dalla cassa destra e io dalla sinistra, e Gusella dalla sinistra. Senti che bello effetto. Spegni il canale sinistro, quello lì, vai, fa interferenza. No, in realtà, caro Peppe, non è un'interferenza. Ah, ma forse facevi riferimento al personaggio. No, perché abbiamo anche un po' di Larsen, perché stiamo usando i monitor invece della cuffia, quindi vabbè. L'arsenico ci abbiamo. Io invece vi potrei raccontare di Umbrella Academy. Di Umbrella, capri un po' Umbrella. Bravo. Umbrella Academy, bravo. Praticamente è l'adattamento televisivo di un fumetto della Dark Horse Comics. Del 2006 addirittura, che è andato avanti per qualche anno, sì, perché si può guardare. Quindi Agusella fa schifo. Fa schifo la vecchiezza. Praticamente narra la storia di alcuni ragazzi. Ma tornando a bomba, questi ragazzi sono nati tutti, se non sbaglio, il 9 di ottobre. Se torniamo a bomba, dobbiamo parlare di Kim Jong. Sono nati tutti quanti alle ore, potrei dire delle cazzate sui numeri perché non me li ricordo bene, comunque il 9 di ottobre alle ore 7 di mattina o di sera adesso, perché però penso sia di mattina, alla stessa ora, ovviamente riportate nelle varie location del mondo, tutti quanti all'unisono. Cosa c'è di strano? Perché può succedere che 43 donne partoriscano 43 bambini contemporaneamente statisticamente, su 6 miliardi quanti siamo, sì. Succede? E che queste donne, nessuna di loro era incinta fino al momento in cui la so, i midichlorian non si sa, in realtà ancora non si sa. Allora, mentre questi qui partoriscono questi 43 bambini, a un certo punto entra in scena un riccone di nome Earl Graves, Reginald Graves, se non sbaglio, quello delle sfumature di Grey, no, sei quello Earl Graves. E comunque va in giro per il mondo a recuperare, va proprio a comprare dai genitori, in modo da accaparrarsene il più possibile. Già che non so come l'ho concepito, perché non venderlo? Mi sembra giusto, esatto. Certo. E riesce ad accaparrarsene ben 7, che porta con lui praticamente nella propria città, e con l'intenzione di addestrarli e farli diventare dei supereroi che debbono salvare il mondo. Aspetta, mi stai dicendo che questi bambini hanno dei poteri? Hanno tutti dei poteri, tranne uno. Che palle, Tranne uno. Ma la storia in realtà non parla di questi che fanno i supereroi da bambini. In realtà, come si vede da tipo 5 minuti dopo che è cominciato il telefilm, parla di questi ragazzi che sono cresciuti e ognuno ha preso la sua strada. Ma nel senso proprio ha abbandonato completamente quello che era. Per la serie, chi te sa in culo fa il supereroe? Esatto, anche perché il padre aveva lo stesso amore genitoriale che dimostra il sergente Hartman per i propri Marines. Il padre sarebbe quello che se li ha comprati? Esatto, okay. Esatto. E quindi che succede? Che ognuno di loro va per la propria strada. Uno di loro muore nel frattempo, vi spoilerò 5 minuti di telefilm. E quindi sono rimasti in 6, di cui questa tizia che è interpretata da Ellen Page, che è quella che non ha poteri, però suona il violino, questa è la sua cosa. Però ha il genere eccessivo, quindi non diventa zombie. Non diventa zombie, non si sa. E quindi praticamente si rincontrano al funerale del padre, perché all'inizio del film, del telefilm, muore il padre, e quindi si rincontrano. Saranno anche 5 minuti di riassunto spoilerato, ma già mi ha stressato sta serie. No, è terribile, guarda. Praticamente una volta fatto il funerale, ricompare un altro dei fratelli di questi 7, che nel frattempo era sparito. E le 7 spose? Le 7 spose verranno più avanti. Che cosa succede in tutto questo telefilm? Succede di tutto. Innanzitutto, non lo considerate un telefilm alla Marvel o alla DC, tipo Flash o Titans, perché non c'entra nulla. Cioè, queste sono persone che hanno in realtà delle caratteristiche principali, ma sono personaggi veramente che hanno abbandonato la parte supereroistica perché si sono rotti il cazzo del padre, che praticamente comunque sembrava un folgorato, e si ritrovano praticamente coinvolti da quest'atto che era sparito e che ricompare all'improvviso, a dover salvare il mondo dall'apocalisse. C'è un po' un retropensiero quasi alla Watchmen. In realtà ci sarà l'apocalisse. Dovranno evitarla. Più una meno. Guarda un po', quindi alla fine. Però dovranno evitarla, considerando che uno di questi personaggi è il numero. Ah, tra l'altro, questi bambini non vengono. Non gli viene dato un nome. Cioè, vengono chiamati numero 1, numero 2, numero 3 perché il padre, quindi frega un cazzo di che ti dai un nome. Ma scusa, aspetta, io devo fare una domanda. Sì. Noi siamo partiti con questo che se li è comprati al mercato, ma poi tu lo stai chiamando padre, vuol dire che li ha concepiti li lui? No, li ha adottati, diciamo. Ah. No, nel realtà non si capisce, non penso che lo chiamano papà, però non so se li ha adottati, comunque lo chiamano tutti papà. Vabbè. E li chiama per numero, quindi numero 1, numero 2, numero 3, eccetera, eccetera. Poi più avanti verrà dato loro un nome dalla madre adottiva, che in realtà non è altro che un robot che viene. Massimo, spoilerci pure questo. No, io vorrei. Intanto sta all'inizio. Cioè, vorrei dice tutto all'inizio. Quindi. Vorrei, come dire, stendere un velo sul 23. Il 23 dove sta? Scusa, non c'è rima. Perché tu mi hai detto che sono tipo 40? Sono 43. Il numero 23. Sì, non si sa. 23, quello. Bucio de cu. No, arrivano fino a 7. Fondamentalmente. E quindi ci sono dei diversi personaggi, diverse situazioni. È recitato molto bene, ci hanno speso i soldi, si vede, la sceneggiatura, la storia si dipana non troppo velocemente, fortunatamente non è di quelle che ti buttano in azione, anche perché l'azione c'è ma è poca, è molto più verboso tra virgolette. Così Gualdi può fare un riassunto però, più prolisso. È morboso. No, però è molto bello, ci sono bei personaggi ben disegnati, vi innamorerete di uno dei personaggi che all'inizio vi starà più sul cazzo, che è il ragazzo che ha la possibilità di parlare coi morti, che parlo sempre coi morti, mortacci tua. Che è stupendo. Io parlo con le persone quasi morte, per che siamo voi. Tutti noi, che siamo noi fondamentalmente, perché ricordiamoci che dopo essere nato comincia a morire. Esatto. E ricordatevi che siete in casa mia. Esatto. Quindi potresti sparare. Esatto. Va bene, quindi allora, ve lo consiglio, allora do un voto 8 e mezzo. 8 e mezzo, come il programma della Gruber, tutto torna. 8 e mezzo, sì. Va bene, e facciamo una cosa, più che altro per affetto, mettiamo la sigla di quell'argomento lì. Più che altro ricevo per affetto, perché sostanzialmente, non so voi, ma a me l'episodio di questa settimana mi ha fatto due gonadi tante. Infatti avevo difficoltà anche a ricordarmelo, perché che è successo? Ah sì, sono andati sul vulcano dove casualmente c'è sta Spock. Esatto, nascosto, non lo trovavano, i vulcaniani non trovavano un vulcaniano in casa loro, vabbè. Ma devo dire che dopo 4-5 episodi con pieni di colpi di scena, ritmati, diretti bene, insomma, che c'erano piaciuti malgrado certe, come dire, certe forzature, questo di questa settimana è stato veramente, veramente noioso. Dice, sono arrivati, mi sa che sei arrivato il conto. Non lo so, speriamo che migliorino nelle prossime puntate. Speriamo che si riprendano. Alla fine, insomma, c'era una puntata un po' di transizione dove finalmente ci hanno fatto conoscere sto Spock. Cioè, effettivamente faccio difficoltà a ricordare che cazzo è successo. C'è stato lui che parla da solo, scrive le... ecco la grande rivelazione. Aspetta, mo me sono ricordato che potrebbero incasinare ancora di più il continuum di Star Trek, perché alla fine della puntata possiamo spoilerare? Ma non lo so, diciamo, non so. È passato qualche giorno, anche perché poi già si vede nei trailer, si vedono i... comunque alla fine della puntata esce fuori il nome Talos 4, che esatto. Si ricorda che cos'è Talos 4? Il famoso zoo di Talos. Esatto, la puntata pilota della stagione classica The Cage, per esatto. In cui peraltro c'era il capitano Pike. C'è Pike che non è mai stato su, ma non, infatti non c'entra neanche questa volta su Talos. Quindi si svolge qualche anno prima probabilmente di The Cage, ma vediamo in che modo riusciranno a fare in modo che Spock non si ricordi poi di esserci mai stato su Talos 4. Non penso che ce lo porteranno, no, non ce lo portano. No, probabilmente porto, non lo so. Fatto sta appunto che diciamo che questo plot sembra voler essere il punto d'incontro tra tutto quello che dall'inizio della serie classica, in cui vi ricordiamo che, per chi non l'avesse visto, The Cage, in italiano Zoo di Talos, è questo episodio pilota girato prima di quando poi la CBS commissionò la serie a Gene Roddenberry, in cui il cast era leggermente diverso, i mezzi erano ancora più, come dire, poveri della serie canonica, della serie classica, e c'erano questo equipaggio con queste tutine di lana, capitanate appunto dal capitano Christopher Pike, che si trovano ad avere a che fare durante una missione quinquennale precedente a quella di Kirk, con questo pianeta che si chiama Talos 4, e nell'equipaggio di quell'Enterprise c'era già Spock. E altri ridere. Personaggi c'era uno Spock era molto luciferino come tratto, era molto diverso da, perché ovviamente essendo un pilot alcuni personaggi erano stati soltanto accennati, e poi per la, diciamo, quando la serie è stata commissionata sono stati cambiati un po' gli archetipi delle linee caratteriali, anche delle, diciamo, delle caratterizzazioni somatiche, quindi era uno Spock un po', c'era le orecchie a punta, sì. Un po', forse un po' più a punta, non mi ricordo, vabbè, comunque insomma a quanto pare stanno tentando il colpaccio per riunire le timeline. Fino adesso non riesco ancora a capire l'utilità di mettere l'Enterprise e Pike nella trama, perché fondamentalmente potevano evitarlo. Allora, tu togli Pike e mettici un nuovo capitano. Ma secondo me hanno voluto sfruttare un personaggio che comunque aveva un certo fascino, declinandolo più di quanto non fosse mai successo prima, perché Pike alla fine, porello, nella visione comune è quello che finisce sulla sedia a rotelle dentro uno scaldabagno, esatto, praticamente, esatto. E fa bip bip. Quello. Però insomma, fondamentalmente è una figura che ora come ora è inutile, cioè, sì, non... sì. Lui dà gli ordini e gli altri dicono no, forse è meglio fa così, lui dice sì, c'ha ragione, è meglio fa così, è vero. La sua presenza, però la sua presenza, diciamo, con il Klingumano un po' si incazza. Sì, perché è colui che si incazza, e poi alla fine, vabbè, tutto sommato, famo pace. Sì, devo dire. Che... Però, cioè, il fatto è che non ci avrebbe senso. Cioè, se tu togli Pike e togli l'Enterprise e lasci soltanto Spock, che avrebbero potuto comunque. Solo voleva quella sonda. Ma quella viene dal futuro. Capito. Un razziatore. Diciamo, si sono aperti dei plot che probabilmente si svilupperanno nei prossimi episodi. Speriamo che si chiudano anche. Speriamo anche che si chiudano. Come speriamo che si chiuda anche questa puntata, perché non so voi, io sto per diventare afono. Ci dice però Davide Gatti, nel 2200 un bel lampadone, un lampeggio sì, due lampeggi no, invece gli effetti sonori. Sì, però tu devi pensare che quel 2200 in realtà era un 1950 qualcosa. No, anni 60. Non era dal 59 66. Sì, 66-69, quindi forse era 65, qualcosa del genere. Però insomma, diciamo che all'epoca si era un pelino più ingenui, insomma, si cercava di attirare l'attenzione scenografica. E poi comunque due lampadine costavano, meglio metterne una, insomma, cioè, si risparmiava su tutto. Sì, poi ripetiamo che essendo un pilot lo hanno girato veramente con un budget vicino allo zero. Okay, Bip Bip non era il pilot della stagione regolare, però. Che ti prendevi i pezzi di The Cage. Sì, perché c'era. Perché in The Cage Pike è ancora, diciamo, sulle sue gambe. Sì. Aveva appena terminato una battaglia su Rigel qualche cosa. Pensava addirittura di lasciare la federazione. Quindi immagina un po'. Altre situazioni. Comunque sì, alla fine costava troppo. Io pure avrei fatto la stessa cosa. Tra l'altro, per la cronaca, lo Zoo di Talos, se non ricordo bene, se non ricordo male, volevo dire, su Netflix c'è tra gli episodi della serie classica, perché poi è stato reinserito. Sai che non ho mai trovato invece l'originale The Cage, non sono mai riuscito a vedere. E se io ti dicessi che ce l'ho in VHS originale? Ma io non ho il VHS, purtroppo sono problema, questi i problemi della tecnologia che va avanti. Quindi in quel caso un bip sì, due bip no, funziona sempre. Esatto. Il bello analogico di una volta, diciamolo. E vabbè. Ragazzi, detto questo, ho sonno pure io, andiamo a farmare. Diciamo sì che io ho fatto il programma con un mal di gola, Gusella col mal di vita, Pizzico non lo diciamo proprio perché appunto col mal di mare, col mal di male, che praticamente il buon Pizzi sicuramente sarà andato a dormire nel suo lettino, perché in realtà dovete sapere che Pizzi è andato in missione. Io adesso non vi posso dire molto, vi posso accennare solo una cosa: Pizzi è andato sulle tracce del priore, non posso dire. Però sicuramente io lo immagino a riposo lì nel convento del priore, nel suo lettino, nella sua celletta, come i monaci di una volta, nel suo lettone rigido, mai troppo comodo, dopo aver pregato sui ceci per almeno un 3 ore, 3 ore e mezza, penso, no? Quindi insomma, una vita faticosa, ma siamo sicuri che la prossima settimana tornerà più cattivo, più polemico, più pizzi che mai. Poi avrà tante cose da dire, tante cose. Intanto il Porto vince sulla Roma 2-1, però insomma, che l'andazzo fosse quello l'avevamo già capito. Va bene. È come se fossero 3, quindi vanno a rigori, che bello. Guarda, facciamo così, non parliamo di calcio, che tanto è vero che l'argomento scaccia figa, ma tanto di figa non se n'è vista, è arrivata soltanto Michela all'ultimo a salvarci un po' la faccia. Dobbiamo parlare di qualcosa di femminile, intanto. Parliamo di cosa? Di maschere per il viso. Prossima puntata, maschere per il viso. Ok, sarà una monografia, conduce Gusella. Tipo i sacchetti di carta. Salutiamo tutti quelli che ci hanno fatto compagnia questa sera in chat: Davide Gatti, Carmine Puccio Console, Enrico, Stefano che poi ci ascolta in differita, lo sappiamo, Lobby Frontali, Pier G, Peppe Rizzard, Michela, De Paola che ci ha raggiunto più o meno verso la fine, e dandovi intanto appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che dovremmo tornare in configurazione completamente standard se tutto va bene, quindi con Pizzi alla console nello studio principale, quindi con tutti e due i canali in stereo. Detto questo, da Walter Sman è tutto, anche da Marco ciao, anche da me l'innominato è tutto, ma io vi ricordo che io e Cesare abbiamo tornato a fare trasmissioni, e ieri sera abbiamo fatto questa diretta dedicata alla fiction della Rai del Nome della Rosa. La trovate su Spreaker sotto questa trasmissione, ha un nome che, per chi non avesse memoria, la nostra trasmissione, per cui l'appuntamento è tutti martedì sera a commentare le puntate settimanali. Oh, che bello, va bene. Allora ragazzi, buonanotte di nuovo anche da me, un bacione, un abbraccione, vi lasciamo col siglone che non c'è.